appunto in linea Aldo Milani, che ci parlerà dell'assemblea che si terrà il 16 giugno a Bologna per respingere i licenziamenti, a questo punto non possiamo che definirli anche questi politici, che ci sono stati, e anche insomma fare il punto su questo fatto grave della precettazione praticamente richiesta ai lavoratori della logistica, anche quelli che maneggiano sostanze deperibili come gli yogurt, per esempio, una cosa di cui non se ne può fare assolutamente a meno. Sì, vogliamo ricordare così proprio per introduzione appunto il fatto che durante la lotta che sta avvenendo oramai da alcuni anni nei magazzini della logistica, una lotta che si è andata espandendo, è partita diciamo da alcuni magazzini della Lombardia e piano piano si è diffusa oramai in centinaia di luoghi di lavoro un po' su tutto il territorio nazionale, perlomeno fino a Roma, con qualche tentativo che si è iniziato a manifestare durante lo sciopero generale del 15 maggio scorso anche a Napoli, e chiaramente il padronato si è riconosciuto in particolare modo nella Grenalolo e nella Lega delle Cooperative, che a Bologna si sono fatti i protagonisti della repressione di questo movimento di lotta, con il licenziamento di 9 operai da parte dell'Adriatica e altri 41 invece lavoratori in appalto alla Grenalolo. Non contenti di questo, queste organizzazioni patronali hanno richiesto attraverso il prefetto l'intervento della commissione di garanzia sullo sciopero, perché la stessa inserisse tra i servizi pubblici essenziali la movimentazione e il trasporto di merci cosiddette deperibili, e quindi con la conseguenza di applicare le procedure della legge 146 del 90, la legge antisciopero, e quindi costruendo una modalità di repressione delle lotte che vorrebbe bloccare sia le lotte in corso e sia l'estensione delle stesse. Da ultimo, e questo lo aggiungiamo proprio perché è presente nel comunicato di convocazione dell'assemblea di domenica prossima a Bologna, aggiunto l'accordo fra CGIL, CISL e UIL e Confindustria, volto a reprimere diciamo così la partecipazione diretta dei lavoratori alla vita sindacale nei luoghi di lavoro attraverso un vergognoso accordo sulla rappresentanza, che vorrebbe essere in esclusiva appunto di CGIL, CISL, UIL e UGL o altri sindacati gialli che vengono definiti e costruiti per l'occasione. E di tutto questo si vuole parlare in questa assemblea di domenica prossima, alla quale naturalmente sono invitate anche tutte quelle realtà sociali e di sostegno alla lotta dei lavoratori della logistica, che in questi ultimi mesi in particolar modo, ma in alcuni casi penso per esempio a Milano anche già da qualche anno, si sono costituite appunto per sostenere e diffondere queste battaglie. Questo un po' in estrema sintesi ci sembra il quadro dell'assemblea che si va preparando, e quindi abbiamo appunto al telefono Aldo, che ci aggiungerà chiaramente elementi rispetto a questo quadro, quindi ti lasciamo la parola. Sì, la cosa l'hai ben descritta tu, quello che sta avvenendo. L'elemento di fondo diciamo di questa assemblea non ha soltanto il compito di discutere diciamo di quello che avviene nel settore, ma siccome questo elemento di repressione non a caso avviene in un settore dove nella realtà i lavoratori hanno mostrato una grande capacità di lotta, ed è chiaro che è il primo che cercano di coinvolgerlo da questo punto di vista. L'ordine del prefetto va nella direzione e in riferimento alla Granarolo, però è chiaro che qualora diciamo questi forme di sciopero avvenissero anche dalle altre parti, come stanno avvenendo, chiaramente verrebbero poi represse sotto questo tipo di aspetto. Non è in caso tra l'altro che contemporaneamente noi stiamo andando avanti in un processo ad origine che era di una lotta che era partita all'inizio del 2008 in questo processo abbiamo 26 accusati all'interno e vari elementi che hanno partecipato, non solo interni all'azienda ma soprattutto quelli esterni che hanno partecipato a sostenere questa lotta. Il tentativo è quello di criminalizzare questa forma di lotta, cioè lo sciopero va bene, fatelo, però fatelo in una maniera in modo tale da non nuocere al padrone. Quindi il risultato è che nel mio caso io ho 8 capi di imputazione rispetto a questo aspetto qui, e so che per delle altre parti stanno andando avanti negli stessi termini. Cioè il problema loro è di cercare di poter bloccare queste forme di sciopero, cioè vuol dire il non fare il picchetto avanti alle aziende, non è più possibile farle, portarle avanti. Credo che la tentazione che può venire fuori anche da quello che ho sentito da vari compagni è quello di fare come era stato fatto all'inizio della 146, di creare una specie di commissione di legali che fanno petizioni o raccolgono elementi per denunciare questo stato di fatto, eccetera. Io credo che questa cosa possa essere una roba molto ma molto secondaria. Credo che l'elemento di fondo che ci contraddistingue, che deve caratterizzare eventualmente nelle lotte future, è proprio la lotta, cioè nel senso che non è possibile pensare che si possa delegare agli avvocati o alle petizioni la possibilità di poter eventualmente arrestare questo tipo di processo. Credo che, come abbiamo fatto alla Granarolo lunedì, noi ci siamo presentati davanti alle 3 del mattino e abbiamo bloccato fino alle 10 del mattino stesso. Cioè è chiaro che in questo caso qui si è stati anche favoriti in questo tipo di presa di punizione del prefetto, perché nella misura in cui fai un provvedimento del genere e i lavoratori sono licenziati, non è che fai lo sciopero, cioè lì trovi di fronte presidi lavoratori che vogliono rientrare a lavorare o comunque ad avere un salario, e su questo aspetto bloccano senza incorrere eventualmente a nessuna 146, e questa è la forma che caratterizza. È chiaro che se la lotta resta legata alla situazione della logistica è prevedibile che non è che possiamo tenere all'interno di questo settore. Intanto noi facciamo il nostro dovere all'interno di questo settore cercando di allargare il più possibile, quindi il 16 ha proprio la funzione di poter creare degli elementi di coordinamento tra le lotte che si possono essere a livello nazionale, non delegando né agli avvocati né agli altri il tipo di risposta su questo tipo di problema. Certamente abbiamo la necessità di avere la sussidiarietà da parte degli avvocati anche su questo aspetto qui, ma credo che nella misura in cui vogliono fermare le lotte mettono in piedi tutte le cose possibili e immaginabili. Credo, siccome c'è un'estensione di questa lotta, a livello più generale, sarà un po' difficile per loro in questo momento fermarla. E credo anche che avremo dei risultati, perché noi contemporaneamente lunedì abbiamo bloccato ad Orbassano vicino a Torino la TNT, abbiamo ottenuto oggi, abbiamo firmato un accordo con la TNT di Torino, dove c'è la sede centrale della TNT, e a Brescia lo stesso, domani firmeremo un accordo, abbiamo bloccato l'azienda martedì dell'altra settimana e domani andremo a firmare questo tipo di accordo. L'estensione della lotta permette eventualmente di poter contrastare questo tipo di problema, nasceranno, perché non possiamo aspettarci che di fronte alla crisi, di fronte alle risposte, i padroni utilizzeranno tutti gli strumenti che hanno a disposizione, anche quelli della repressione più diretta del lavoratore. L'esempio di Terni e delle altre parti avviene così, anche nelle manifestazioni dove magari i sindacalisti si mettono d'accordo di occupare le ferrovie, e la borghesia non permette più neanche queste forme pacifiche della lotta di classe, dove chiedono magari di avere la cassa integrazione. Qui si tratta di mettere in piedi una lotta che sia effettivamente che incida effettivamente, e il risultato poi come secondario quello di formalizzare anche attraverso degli accordi questi tipi di lotte che andiamo a fare. Però è chiaro che l'elemento nostro non è quello di affermare un sindacato tradizionista, ma affermare un sindacato di lotta che si pone un problema in senso anticapitalista, e si pone il problema di aprire anche una fase dove politicamente sia possibile cominciare a discutere tra i vari settori che intervengono all'interno della lotta, che sia necessario allargarla, che si entri direttamente in coordinamento tra questi settori che cominciano a muoversi in questa direzione. Questa è la funzione di questa assemblea, è quella non soltanto di raccogliere diciamo, le adesioni per fare delle azioni su un piano legale o qualcosa d'altro, ma cercare di avere delle adesioni e coordinarsi e vedere se ci sono dei settori che si muovono in questa direzione con noi, perché se si allarga avremo la possibilità di effettivamente mettere in discussione tutte quelle azioni antisciopero eccetera che metteranno in campo. Se non faremo questo qui e restringeremo la lotta soltanto alla storologistica, è chiaro che non potremo resistere da soli. E su questo aspetto l'assemblea ha questo compito, non quello del dire siamo poverini perché siamo repressi eccetera eccetera. Noi stiamo conducendo questa lotta, sappiamo quali sono i rischi, e quando mi ha guardato pensano che mettono insieme tutti gli strumenti, che non sono solo contando quelli della pacificazione eccetera. L'altro elemento che c'è in campo e che oggi abbiamo ricevuto, l'altro ieri ho parlato col prefetto, avremo il 17 l'incontro dal prefetto, questi ci propongono come forma intermedia una cassa integrazione per tutti questi lavoratori, per cercare di poter bloccare questi tipi di lotte. Noi andremo a questo incontro, chiaramente non è che non ci interessa il fatto che 40 lavoratori possano avere magari un sussidio alla cassa integrazione eccetera, ma se ci sarà cassa integrazione servirà eventualmente a sostenere le forme di lotta che metteremo in campo fin quando questi lavoratori non vengano assunti dalla grana stesso, perché ne ha assunti degli altri al loro posto, ed è chiaro che in questo contesto se serve in questo caso a dare un segnale ai lavoratori che quando lottano, scioperano eccetera possono essere espulsi dall'azienda. Su questo terreno magari l'elemento di mediazione è quello di accettare anche la cassa integrazione, non è l'elemento nostro, cioè quello dell'accettare il fatto di essere espulsi dal processo produttivo che si fa negli scioperi eccetera. Noi utilizzeremo eventualmente anche la cassa integrazione per organizzare meglio quei lavoratori rispetto alla lotta che si è aperta nei confronti della Lega, delle cooperative, che in quella zona è il settore più importante, diciamo, delle cooperative nella zona di Bologna e delle altre parti. Su questo aspetto qui credo che il 16 segni proprio anche un elemento di congiunzione tra quei settori che sono disponibili a portare avanti delle forme di lotta, ma che siano poi concretamente, non a parole, ma siano effettivamente in movimento. Su quello abbiamo avuto già delle adesioni anche dei compagni di Napoli che sono nel settore della Fiat, che hanno dato l'adesione alla partecipazione, e quindi cercare di stringere dei legami con tutti quei settori che oggi lottano per poter avere un po' il punto di vista di classe nei confronti di quello che sta avvenendo sia a livello governativo sia a livello sul terreno padronale per quanto riguarda eventualmente non solo il settore della logistica ma tutti gli altri settori. Sì, rispetto a questo che dicevi, proprio anche alla funzione dell'assemblea di domenica prossima, come sai anche qui a Roma si è formata un'assemblea di sostegno alle lotte dei lavoratori della logistica. A Roma questa lotta si è iniziata a manifestare soltanto a dicembre del 2012, quindi diciamo è abbastanza giovane rispetto alle situazioni invece che si muovono in vari posti del nord Italia. Ecco, e questa è una caratteristica che un po' abbiamo visto già si era verificata appunto a Milano in maniera anche molto forte, a Bologna stessa e a Piacenza, insomma in varie parti d'Italia, cioè questo costituirsi di queste assemblee che non si limitano a un perlomeno qua a Roma, ma da quello che sappiamo anche in molte altre città non si limitano esclusivamente a diciamo essere presenti nel momento dello sciopero, nel momento della manifestazione, ma che cercano di affiancare il lavoro che viene portato avanti dal SICOBAS o da comunque le forme sindacali che si danno nel diffondere questo tipo di mobilitazione, anche per un elemento caratteristico di questo settore, cioè il fatto della grossa presenza, in molti casi quasi al 100%, di lavoratori immigrati impegnati in queste situazioni. Questo è anche un po' una novità rispetto agli immigrati che fino ad oggi non si erano ancora definiti come classe, quindi non l'avevamo visti definirsi come lavoratori, più magari per situazioni di comunità oppure per la sacrosanta battaglia per il permesso di soggiorno e così via. E quindi volevamo anche un po' sapere da te, insomma, come vedevi queste assemblee che si andavano sviluppando e questi percorsi, insomma, di supporto ma anche di proposta e di dibattito su le lotte che si stanno sviluppando in questo settore. Ma una cosa, siamo poco interessati, diciamo, al chiacchiericcio generalmente. Il problema fondamentale è che questi lavoratori, quando si rivolgono a loro, a noi, non è che si rivolgono perché hanno un elemento di coscienza più alto rispetto ad altri lavoratori. Se sono le condizioni economiche le peggiori in assoluto, quando si liberano di fronte a queste cose vengono a chiedere non tanto la possibilità di lottare contro lo Stato, contro il governo, contro, cioè già hanno una posizione dal punto di vista classista. Generalmente le lotte intese in quel senso lì ci sono anche da parte di altri sindacati. Chiaramente la proposta che loro fanno come sindacati, e sono anche il sindacalismo di base in generale, è una proposta dal punto di vista tutto sommato tradizionista di lotta dura per avere dei risultati che nella realtà più delle volte non ottengono anche dei risultati sul terreno immediato. Noi riteniamo che sia fondamentale ottenere anche, formalizzare eventualmente questi rapporti di forza attraverso degli accordi che facciamo anche dal punto di vista sindacale, perché i lavoratori si chiedono una difesa fino in fondo di quelle che sono le loro condizioni, e l'avere la dignità all'interno dell'azienda significa non soltanto avere un qualcosa di più dal punto di vista economico, ma poter avere in azienda la possibilità di definire se vengono tagliati fuori quando ci sono le decisioni, cioè nel senso che se quando fanno i turni non vanno a fare i turni, se prendono salario inferiore, cioè su queste questioni i lavoratori cominciano a definire all'interno dell'azienda il fatto che hanno un rapporto di forza differente. Allo stesso tempo però sono anche lotte di su un piano debole ancora, perché sono delle lotte tutto sommato che sono certamente si sviluppano su un terreno che non è puramente quello salariale, ma è quello anche di uno, perché si trovano di fronte allo Stato, alla polizia, a tutti gli elementi che sono come elementi di sovrastruttura rispetto a quello che è il sistema capitalistico. Però è chiaro che riteniamo che deve essere sviluppata anche un'azione che vada oltre l'aspetto della lotta per avere degli elementi economici in più, però si tratta anche di vedere questo passaggio, perché se ci troviamo a discutere con dei compagni che ritengono che la questione sindacale non sia più una questione elemento essenziale, sia soltanto quella di discutere politicamente come muoversi dal punto di vista delle coscienze eccetera, dovremmo cercare di comprendere almeno qual è la situazione e la fase effettivamente dei lavoratori complessivamente. Queste lotte non è che vengono da noi perché vogliono fare una lotta contro lo Stato, contro il capitalismo eccetera, più delle volte sono molto confuse gli elementi, diciamo, con cui si avvicinano a noi, si avvicinano più delle volte perché le condizioni economiche sono il semischiavismo all'interno di queste aziende, e per questo motivo sono anche magari meno impregnate dal punto di vista riformistico, non hanno esperienze dietro di un sindacato magari confederale che li ha coinvolti all'interno di un'azione politica riformista eccetera, quindi sono più liberi di muoversi, però sono su un terreno fondamentalmente ancora aziendalistico. Sta lì la capacità anche di avere un'azione dal punto di vista sindacale, non chiudere all'interno di un discorso dal punto di vista tradizionistico, ma sviluppare dal punto di vista politico. Quindi i comitati, a ragione di essere, quando non diventano soltanto strumenti di discussione per la discussione, ma la capacità di mobilitare eventualmente dei settori di lavoratori, e con la capacità che questi lavoratori diventino protagonisti all'interno di queste lotte stesse. Per cui vuol dire, non si tratta di mettere insieme quelli che hanno già capito, si tratta di mettere insieme quelli che hanno già capito per porre un problema rispetto a uno sviluppo della lotta dal punto di vista complessivo. Per cui i comitati, va bene che siano diciamo discutano e partecipino a livello di comunicazione eccetera e facciano elementi di propaganda, noi vorremmo qualcosa di più, per cui nelle lotte vorremmo che accanto a noi si sta selezionando anche una serie di compagni e comitati che partecipano alla lotta non soltanto sostenendola, essendo prima di tutto l'elemento di fondo certo di essere presenti ogni giorno, perché in questi picchetti qui tutti, anche a Bologna abbiamo una serie di compagni che sono che sostengono la lotta, però nella partecipazione ne vediamo pochissimi, a parte altri compagni che si stanno selezionando, e all'interno di questo processo c'è un rapporto che è un rapporto anche dal punto di vista politico, e su questo terreno nascono i comitati, e sono effettivamente espressione di lavoratori che cominciano a porsi un problema che va al di là del collegamento per resistere all'interno di un'azienda, ma vuole di porsi un problema politico più generale. O su questo terreno siamo aperti a qualsiasi esperienza, e su questo stanno sviluppandosi anche delle iniziative di comitati che hanno effettivamente una funzione di rafforzare e di sviluppare un'azione politica, non soltanto quella di andare a fare etichetto all'interno dell'azienda, però avendo anche chiaro che se non c'è anche un intervento da un punto di vista sindacale, principalmente sindacale, per avere dei risultati, non è che andiamo davanti alle aziende per chiedere l'abolizione del lavoro salariato, oppure perché vogliamo eliminare le cooperative. Eliminiamo nella misura in cui eventualmente le mettiamo in difficoltà, per cui creare questa flessibilità all'interno dell'azienda ai padroni quasi non gli conviene più adesso, ma visto le cooperative tutto sommato diventa un costo in più il padrone delle cooperative, perché se il costo della forza lavoro è quello che è superiore a quello che hanno i lavoratori che hanno loro direttamente assunto, diventa proprio inutile quasi avere la cooperativa. È un processo che è un processo economico, ma soprattutto quello di mettere in discussione un sistema che si basa fondamentalmente sulle cooperative, su una flessibilità estrema, ma che riguarda un po' tutta la forza lavoro dal punto di vista complessivamente. Non a caso noi lì facciamo questa iniziativa, a Torino contemporaneamente al lavoro che facciamo sulle cooperative abbiamo aperto un comitato di disoccupati che raccoglie circa 700-800 persone che ogni giorno sono in piedi per mobilitarsi contro questa questione, se il discorso è precariato. Cioè c'è la necessità di allargare questo livello di influenza, ma i comitati diventano fattori di azione, non quello soltanto di discussioni discussioni per discussione che non portano a niente, e soprattutto poi non accettiamo da chi magari è molto più arretrata a noi sul piano dell'iniziativa le critiche che vengono fatte come noi facessimo il sindacato, tentando di fare il sindacato. Facciamo un sindacato con caratteristiche del sindacato di classe, per cui tendenzialmente cerchiamo di aprire un discorso e favorire un processo politico che è più ampio, che va al di là dell'organizzazione del lavoratore in quanto lavoratore di quell'azienda, ma il lavoratore in quanto presente nella società, di un discorso di classe, la necessità di collegarsi ad altri lavoratori in questa prospettiva di carattere più generale. Per questo i comitati possono avere una funzione se effettivamente sono elementi di discussione anche delle questioni più complesse eccetera, ma la capacità di poter indirizzare queste lotte su un terreno aziendale, anche su una concezione della lotta contro il governo, contro lo Stato eccetera eccetera, per cui i comitati va bene che siano sviluppati, quello a cui tendiamo da tutte le parti a portare avanti, però è necessario che siano poi i lavoratori in prima persona a porsi questo problema. Il sindacato diventa quasi un elemento di sussidiarietà, cioè quelli che sono fuori che aiutano a prendere coscienza di questa situazione, che favoriscono la loro esperienza per poter coordinare e allargare questo tipo di lotta, sono elementi fondamentali, però devono essere i lavoratori in prima persona che cominciano a prendere coscienza che sono un settore non tanto classe di per sé perché lavora nella logistica, ma classe complessiva, che si serve a collegarsi ad altri settori di lavoratori precari e gli studenti stessi che oggi nella crisi sono messi in discussione. Per cui su questo aspetto qui siamo aperti ai comitati, ma che abbiano una funzione effettivamente di non solo di discussione, ma capacità anche di direzione delle lotte stesse, e comunque se il lavoratore in prima persona prendesse in mano questo tipo di esperienze. Beh, guarda, come penso sai, insomma, noi che conduciamo questa trasmissione qui a Onda Rossa facciamo parte dell'Assemblea Coordinata e Continuativa contro la Precarietà, che è un progetto di auto-organizzazione delle lavoratrici e dei lavoratori, e quindi chiaramente siamo assolutamente d'accordo sul fatto che si facciano protagonisti direttamente i lavoratori, e non pensiamo, insomma, che ci sia bisogno di funzioni dirigenti esterne da questo punto di vista, ma non vogliamo chiaramente aprire adesso questa discussione, anche perché siamo in chiusura di trasmissione, invece richiederebbe molto tempo, abbiamo anche molte perplessità rispetto al modello sindacale per anche per condurre la lotta economica, però non è chiaramente di questo che adesso ci vogliamo soffermare. Sottolineavamo invece la particolarità, insomma, che queste lotte hanno assunto rispetto ad altre esperienze in altri settori di lavoratori. Però dove fare una riflessione su come mai queste le altre lotte eccetera si riflettono sempre su se stesse, diventano elementi ma noi lo diciamo come un elemento positivo, questo lo rileviamo come un elemento positivo il fatto che si sia sviluppato questo tipo di percorsi. Noi stessi qui a Roma ne facciamo parte dell'assemblea di sostegno alle lotte e cerchiamo, appunto, come dicevi te, di essere sulla materialità. Non si tratta di stare a chiudersi a discutere sul sesso degli angeli, ma appunto invece di praticare effettivamente il conflitto e di cercare di mettere in collegamento diversi settori di lavoratori e in prospettiva anche diversi settori sociali. Quindi su questo non c'è assolutamente nessun problema, però appunto ci pare una caratteristica importante, insomma, presente all'interno di questa lotta, e che quindi in tante volte ci siamo sentiti, insomma, non abbiamo mai avuto l'occasione di confrontarci su questo aspetto, e ci pareva, insomma, quindi interessante per gli ascoltatori e le ascoltatrici anche rilevare questo aspetto qua. E detto questo, appunto, ti lasciamo la parola se vuoi aggiungere qualcosa, oltre naturalmente all'invito a tutti e a tutte coloro che possono a partecipare a questa assemblea che si terrà domenica prossima dalle 10:30 alle 15 a Piazza Verdi a Bologna. E appunto, se tu vuoi aggiungere altri elementi che ritieni, insomma, di voler dire. No, niente, diciamo che l'elemento di fondo è di fare una valutazione un po'. Credo che uno dovrebbe, generalmente chi partecipa a qualsiasi forma di lotta politica in generale, dovrebbe porsi il problema, perché anche il superamento del sindacato, il sindacato sia ormai dagli anni 30, chi è intervenuto su questa questione aveva parlato di integrazione del sindacato allo Stato, è un dato oggettivo, però che i lavoratori fondamentalmente quando si rivolgono non vanno al comitato a chiedere eventualmente la possibilità di essere organizzati, ma si pongono il problema di poter portare avanti una lotta sul terreno salariale. Il problema è che da quell'allenamento è possibile poi sviluppare anche iniziative dal punto di vista politico più generale, e non è un caso che i lavoratori, non è che voglio dire, in qualsiasi lotta che parte i lavoratori vanno a costituire il comitato. Il comitato è un elemento in più quando l'elemento di coscienza si alza, e quindi la capacità di poter legare le lotte sul terreno della difesa economica dei lavoratori a una prospettiva di carattere generale. Comunque poi avremo modo eventualmente di ragionare di più su questa questione in generale, ecco. Va bene, grazie. Per l'intervento, e a sentirci presto, ciao. Bene, con questo andiamo in chiusura di trasmissione. Volevamo leggervi, visto che abbiamo parlato praticamente di repressione delle lotte o di